Vediamo, ci siamo, ci senti? Sì, ciao. Ciao, come stai? Bene. Vediamo, raccontaci un po', abbiamo dato qualche settimana fa la bella notizia della liberazione di questi compagni. Sì, in effetti è stata una vittoria di quelle che ci ricorderemo sotto per tutta la vita, però come sempre è stato prodotto una serie di azioni coordinate in diversi punti e anche da diversi fronti. La cosa più interessante di tutto questo processo che abbiamo seguito, diciamo, in qualche modo fin dall'inizio, questi 9 compagni che sono usciti sono la gran maggioranza, sono 8 uomini e una donna, e la maggioranza di loro erano prigionieri comuni, erano detenuti comuni che si sono politicizzati in carcere. Infatti più che preso politico, la definizione esatta sarebbe preso spolitizzare, e si sono politicizzati in carcere attraverso anche l'azione di organizzazione dell'organizzazione promossa dal professor Alberto Capistani, che in questo caso è il prigioniero politico più famoso nel Messico, un compagno che da 13 anni è in carcere e in tutte le carceri dove è andato a organizzare i detenuti politicizzandoli con gruppi di studio e poi con azioni intraprese dentro le carceri, tra cui presidi permanenti nel cortile del carcere, e scioperi della fame, rifiuto del cibo e le varie lotte che poi insomma hanno dato vita, e soprattutto denunce quotidiane o settimanali delle condizioni delle carceri. Quindi diciamo il prodotto di questa vittoria, la libertà di questi 9 detenuti, di questi 9 compagni, rimonta alla capacità organizzativa del professor Alberto Patistan e al suo spirito di fare trincea in ogni prigione. Per noi è stata una gioia immensa perché gli 8 compagni e la compagna sommavano insieme 238 anni di sentenze. Solo un compagno era in attesa della sentenza, cioè un processo, ed era da 2 anni dentro in attesa che finisse il processo, mentre tutti gli altri erano già stati sentenziati, condannati con sentenze minime di 20 anni fino alle massime di 47. Quindi alcuni avevano fatto ricorso e proprio 2 settimane prima della liberazione avevano perso il ricorso, nonostante gli elementi apportati dagli avvocati, e con 45 anni di sentenza. Quindi immaginate voi, sapere che ci sono dei compagni, dei detenuti che si sono organizzati, che hanno preso coscienza, con cui abbiamo lavorato per 3 anni, tutte le settimane in carcere, e sapere che il governo aveva confermato, cioè che il tribunale aveva confermato le sentenze, in qualche modo è stata inaspettata la data della liberazione. È stata inaspettata in termini di quando è avvenuto. Però in realtà le caratteristiche proprie del Chiapas, la capacità di poter fare pressione politicamente per ottenere risultati nella sfera giudiziaria era già passata, era già successo nel 2008, che vari compagni erano usciti grazie a una pressione sul governatore, che poi mette una firma, trova un caviglio legale, quello poi è un problema loro di trovare come farli uscire. No, è veramente stata tutta un'esperienza questa lotta, e ha dimostrato che veramente solo un movimento trasversale, però fermo sui principi, può liberare i compagni dalle galere. Sì, infatti chiaramente. Se avete qualche domanda di specifica, perché no? Abbiamo visto anche i video della liberazione in cui ha presenziato il governatore del Chiapas, Manuel Velasco, un uomo del PRI, del Partito Rivoluzionario Istituzionale, che appunto si è presentato per farsi bello con la coccarda al collo, per mettere in scena il suo teatrino elettorale, quando invece diciamo che il merito di ciò che è avvenuto, come dicevi te, va alle mobilitazioni che ci sono state appunto in questi anni. E appunto ricordiamo compagni che sono stati vittima di accuse prefabbricate, di macchinazioni giudiziarie pazzesche, che hanno forse l'unica colpa di essere quella di essere indigeni, appunto, e infatti basta guardare la composizione delle carceri messicane per capire che ci troviamo davanti a un dato di fatto. Appunto sarebbe il caso forse di andare brevemente a fare una piccola cronistoria per ripercorrere il percorso giudiziario umano che hanno portato questi compagni in carcere alla loro liberazione. Sì, beh, in effetti stiamo parlando della vittima sociale classica del sistema coloniale in Messico e specialmente in Chiapas, ossia nelle regioni ad alta percentuale con presenza indigena. In Chiapas, sì, le carceri degli indigeni sono circa il 60% di tutto quello che è lo stato del Chiapas, mentre nelle carceri raggiungono il 95% forse. Ovviamente il sistema di giustizia in Messico, come altrove, a parte che è installato, mantenuto solo per difendere gli interessi dell'oligarchia, della classe dominante, però, e della proprietà privata, infine, però soprattutto è un sistema corrottissimo, pensato solo per mantenere ogni funzionario al suo posto. E questo meccanismo è ogni poliziotto con la sua funzione, tutto in una rete molto difficile da riassumere di tangenti e favori reciproci, una sorta di mafia corporativa che però siede nei tribunali di giustizia fino ai poliziotti nelle strade. Quindi molto spesso, quando poi un delitto avviene davvero per strada, uno stupro, un omicidio, un qualsiasi delitto comune, purtroppo anche molto presenti per la situazione di emarginazione totale che vivono certe comunità e certe periferie, e la polizia opera facendo rastrellamenti e soprattutto prendendo gente in primo ubriacone per la strada, gente che non sa lo spagnolo e che quindi ha pochi elementi per difendersi di fronte alla giustizia e a un tribunale, e soprattutto non ha soldi per pagare un avvocato, inizialmente ha soldi per corrompere il poliziotto all'ora dell'arresto, successivamente non ha soldi per corrompere il giudice all'ora del processo, successivamente non ha soldi per pagare un avvocato per tirarlo fuori. Quindi in tutti questi casi, cioè, il delitto più comune di tutti gli arrestati in Chiapas, che marciscono nelle celle del sistema penitenziario locale, è quello di essere poveri. Poveri e quindi indigeni, perché l'equazione è molto facile qui. Nel caso specifico dei detenuti sappiamo un po' di tutti questi esempi, di quelli che sono usciti, dei compagni, però sappiamo anche altri esempi di gente che è finita in mano ai poliziotti e quindi in mano ai giudici e quindi in mano ai carcerieri per contrapporsi al presidente municipale o al sindaco del paesino o del villaggio dove vivono, perché spesso anche nei villaggi e nei paesini si forma il micropotere locale, appunto quasi sempre del PRI, legato a interessi e alle vendite di terre o allo smercio di sostanze stupefacenti o al traffico di migranti, e spesso trovano contadini che si contrappongono a queste mafie locali, piccole ma molto potenti a livello locale. E quindi alcuni compagni, magari quando erano andati contro il presidente municipale o contro le mafie locali, non avevano neanche un livello di politicizzazione tale da definirsi compagni, però comunque che si rendevano conto che la giustizia non si poteva lasciarla in mano a questi evidenti malfattori criminali, mafiosi. E quindi spesso sono finiti loro in carcere, al primo omicidio possibile, accollabile, sono finiti in carcere nelle grinfie del sistema di giustizia, che non fa altro che perpetrare l'ingiustizia iniziale mantenendo gli innocenti, come si definiscono loro, in carcere. Per cui questa è anche un'altra caratteristica, il valore dell'innocenza come concetto è molto forte tra i detenuti e nelle lotte carcerarie, però aggiungiamo noi che a questo concetto di innocenza che non possiamo assolutamente togliergli ai detenuti che si ritengono tali, c'è anche la necessità di lottare in maniera integrale contro le carceri, cioè contro il sistema di giustizia nel suo complesso, perché è un sistema di giustizia coloniale che solo perpetua la povertà e oltretutto discrimina in maniera razzista nel 2013 a tutte le persone. Un indigeno che non parla spagnolo o che parla poco lo spagnolo ha come l'80% di possibilità di finire in carcere di uno che parla spagnolo, perché spesso poi le confessioni vengono strappate, e di 9 casi ce ne abbiamo almeno 6 sotto tortura, e obbligando quindi la gente a filmare. Fra questi 9 casi abbiamo anche quello di Rosa Lopez, una donna che era incinta al 4º mese quando è stata arrestata, è stata torturata, violentata, e l'hanno soffocata in un sacchetto di plastica fino a farle perdere il respiro. La conseguenza di questa tortura è che suo figlio Nathanael è nato con paralisi cerebrale e dopo 4 anni è morto. Quindi noi contiamo tra le colpe dello Stato, altro che giustizia, come dice il governatore Manuel Velasco, che è venuto fino al carcere a dire che finalmente si riparava un torto e che faceva giustizia. Noi diciamo dov'era quando i poliziotti hanno torturato questa donna, e annoveriamo tra le colpe dello Stato un omicidio che è quello del piccolo Nathanael. Sì, chiaro. Questa è un po' una fotografia rapida del dramma che vissuto comunque questi compagni e questa compagna, e che comunque tutti, almeno sei di loro, hanno subito pesantissime torture, tra cui scotta ai genitali, il sottomarino, cioè che quindi è la testa nella tazza d'eccesso fino a togliere il respiro e via dicendo. Insomma, pratiche imparate tutte nella scuola dell'America dai poliziotti legali. Quindi, insomma, questo è il quadro. Quindi il fatto di vederli adesso fuori e di vederli che si stanno riorganizzando in un collettivo per continuare la lotta per liberare il professor Alberto Patistan e gli altri prigionieri politici che ancora rimangono in carcere in Chiapas, soprattutto per esigere un Chiapas con giustizia sociale, beh, ha un certo piacere e un certo gusto, e soprattutto ribadendo che questo è il risultato delle lotte, anche se il governo del PRI poi ne vuole fare bottino, ma questo è inevitabile, che i politici, quando la pressione sociale, quando i movimenti riescano a ottenere dei risultati insperati e soprattutto irrefrenabili, cercano di tirare acqua al proprio molino. A questo siamo abituati e sappiamo pure come rispondere, perché non ci crede nessuno veramente che un governatore di destra del PRI possa essere contento della liberazione di 9 compagni filozapatisti. E non ci crediamo nemmeno noi, appunto. E infatti, diciamo, come dicevi te, la lotta continua, abbiamo altri prigionieri politici ancora detenuti da dover liberare. Appunto, veniamo magari a quello che è il caso più simbolico, quello del professor Alberto Patistán Gómez, che è ancora detenuto nel penal numero 5 di San Cristóbal de las Casas in Chiapas. In primavera, in occasione del suo compleanno, c'è stata una settimana di mobilitazione per la liberazione del profe, con la grande marcia a Tuxtla Gutiérrez, che è la capitale del Chiapas. Qual è adesso la situazione per il profe, per Patistán? La Suprema Corte, che sarebbe un po' l'ultima istanza della giustizia in Messico, ha rinviato la sentenza possibile di liberazione al Tribunale di Tuxtla. Si aspetta quindi una sentenza, una nuova sentenza, nonostante il processo sia chiuso, diciamo un'ultima speranza in termini legali in Messico, per finale di agosto. Ovviamente qua dalla primavera, che ha ricordato il compagno, insomma, dalla mobilitazione storica che c'è stata a Tuxtla con decine di migliaia di persone, continuano le iniziative, anche se sporadiche, locali, fino a costruire una grande iniziativa a Tuxtla per fine agosto, all'approssimarsi della sentenza. Quindi comunque questa è la situazione, ovviamente non ci resta altro che continuare a lottare e darci dentro. L'unica è la liberazione dei 9 detenuti e dei 9 compagni, ovviamente è un grande incoraggiamento al fatto che stiamo marciando con il piede giusto nella direzione giusta. Molto bene, perfetto. Noi quindi ti ringraziamo e speriamo di sentirci al più presto, magari per la liberazione del profe e di tutti quanti gli altri. Magari. Perfetto, grazie. Mandiamo anche dal Chiapas un saluto a tutte e tutti le compagne e compagni che hanno appoggiato, perché veramente la vittoria di questi compagni è stata anche per lo sforzo, per anche minimo, anche una foto, anche uno striscione mandato da lontano, per cui invitiamo ai compagni e alle compagne a continuare a supportare questa campagna di liberazione per Alberto Patistán e gli altri prigionieri politici del Chiapas. Questo è tutto e un abbraccio dal Chiapas. Ciao. Un abbraccio a voi, ciao. Ciao.